Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Diciannovesima puntata. L'albergo dava sul lungo Senna. Come si affacciò sulla soglia, restò un momento immobile, sorpreso dal lieto spettacolo della città e della giornata serena. A perdita d'occhio, lungo il parapetto del fiume, si alzavano dai marciapiedi grandi alberi frunzuti, carichi di brillante fogliame primaverile. Erano alberi che non conosceva, forse ippocastani. Il sole della bella giornata splendeva su ogni foglia, tramutato in verdezza chiara, luminosa, sorridente. Allineati sui parapetti, gli scaffali dei rivenditori offrivano file di libri usati e cataste di stampe. Gente camminava senza fretta lungo gli scaffali, sotto gli alberi, tra lo svariare scherzoso del sole e delle ombre, in un'aria assuadente di tranquillo passeggio domenicale. Marcello attraversò la strada e andò ad affacciarsi al parapetto tra uno scaffale e l'altro. Al di là del fiume si vedevano i palazzi grigi coi tetti a mansarda dell'altra sponda. Più lontano le due torri di Notre Dame. Più lontano ancora guglie di altre chiese, profili di caseggiati, di tetti, di comignoli. Notò che il cielo era più pallido e più ampio che in Italia, come risuonante dell'invisibile e brulicante presenza dell'immensa città distesa sotto la sua volta. Abbassò gli occhi al fiume. Incassato tra i muraglioni di pietra a sghembo, fiancheggiato di banchine pulite, pareva in quel punto un canale. L'acqua, grassa e ricca di un verde torbido, inanellava i piloni bianchi del ponte più vicino di gorghi scintillanti. Una chiatta nera e gialla scivolava rapida e senza schiuma su quell'acqua densa. Il fumaiolo eruttava fumo e sbuffi impetuosi. Si vedevano prua due uomini che parlavano, uno in camiciotto azzurro e l'altro in canottiera bianca. Un passero grasso e familiare si posò sul parapetto accanto al suo braccio, cinguettò vivacemente come per dirgli qualche cosa e poi rivolò in direzione del ponte. Un giovane smilzo, forse uno studente, mal vestito, col basco in capo e un libro sotto il braccio, fermò la sua attenzione. Andava in direzione di Notre Dame, senza fretta, ogni tanto soffermandosi a guardare i libri e le stampe. Osservandolo, lo colpì la propria disponibilità, nonostante tutti gli impegni che lo opprimevano. Avrebbe potuto essere quel giovane. E allora il fiume, il cielo, la Senna, gli alberi, Parigi intera, avrebbero avuto per lui un altro senso. Vide nello stesso momento venire piano sull'asfalto un taxi e lo fermò con un gesto che quasi lo stupì. Non ci aveva pensato un momento prima. Salì dando l'indirizzo del caffè dove Orlando l'aspettava. Riverso sui cuscini, guardò alle strade di Parigi mentre il taxi correva. Notò l'allegria della città, tutta grigia e tutta vecchia, e ciò nonostante sorridente e leggiadra, piena di una dolcezza intelligente che pareva entrare a folate per i finestrini insieme con il vento della corsa. Le guardie ritte ai crocicchi gli piacquero, non sapevano pur lui perché. Gli sembravano eleganti, con il loro képi tondo e duro, la corta mantellina, le gambe sottili. Una di esse si affacciò al finestrino per dire qualche cosa all'autista. Un biondino energico e pallido, il fischietto stretto tra i denti, il braccio armato di bastone bianco teso indietro a fermare il traffico. Gli piacevano i grandi ippocastani che levavano i rami verso i vetri scintillanti delle vecchie facciate grigie. Gli piacevano le insegne dei negozi, antiquate con le scritte in lettere bianche e piene di svolazzi su fondi marroni o vinosi. Gli piaceva persino la foggia inestetica dei taxi e degli autobus, con quei cofani che parevano musi abbassati di cani che andassero odorando il suolo. Il taxi, dopo una breve sosta, passò davanti al tempio neoclassico della Camera dei Deputati, imboccò il ponte, si precipitò di gran corsa verso l'obelisco di Piazza della Concordia. «Così», pensò, guardando l'immensa piazza militare chiusa in fondo dai portici allineati come reggimenti di soldati per una parata, Così questa era la capitale di quella Francia che bisognava distruggere. Adesso gli pareva di amare da gran tempo la città che si stendeva davanti ai suoi occhi da molto prima di quel giorno in cui vi si trovava per la prima volta. E tuttavia, questa ammirazione per la bellezza maestosa, gentile e lieta della città confermava in lui il senso tetro del dovere che si accingeva a compiere. Forse, se Parigi fosse stata meno bella, pensò ancora, egli avrebbe potuto eludere quel dovere, fuggire e liberarsi del destino. Ma la bellezza della città lo riconfermava nella sua parte ostile e negativa, allo stesso modo dei molti aspetti ripugnanti della causa per la quale militava. Pensando queste cose, si accorgeva di spiegare a se stesso l'assurdità della propria condizione e capiva che la spiegava in questo modo perché non c'era altro modo di spiegarla e dunque di accettarla liberamente e consapevolmente. Il taxi si fermò e Marcello discese davanti il caffè designato da Orlando. I tavoli che si allineavano sui marciapiedi, come l'aveva avvertito la gente, erano affollati, ma poiché entrò nel caffè scoprì che era deserto. Orlando sedeva ad un tavolino nella rientranza di una finestra. Appena lo vide si alzò facendogli un cenno di richiamo. Marcello si avvicinò senza fretta e sedette di fronte alla gente. Attraverso il vetro della finestra si vedevano le spalle delle persone sedute di fuori, all'ombra degli alberi e più lontano, parte del colonnato del frontone triangolare della chiesa della Maddalena. Marcello ordinò un caffè. Orlando aspettò che il cameriere si fosse allontanato e poi disse: «Voi, dottore, forse credete che vi daranno un espresso come in Italia, ma è un'illusione. A Parigi non esiste il caffè buono come da noi. Vedrete, dottore, che brodaglia vi porteranno». Orlando parlava con il solito tono rispettoso, bonario, tranquillo. «Una faccia onesta», pensò Marcello, sbirciando la gente mentre si versava con un sospiro un po' di quel deprecato caffè. «Una faccia di fattore, di mezzadro, di piccolo proprietario rustico». Aspettò che Orlando avesse bevuto il caffè e poi domandò: «Di dove siete, Orlando?» «Io? Della provincia di Palermo, dottore». Marcello, senza motivo, aveva sempre pensato che Orlando fosse nativo dell'Italia centrale, dell'Umbria o delle Marche. Ora, guardandolo meglio, capì che era stato tratto in errore dall'aspetto rustico e quadrato della persona della gente. Ma il viso non aveva traccia della mitezza umbra o della placidità marchigiana. Era sì una faccia onesta e bonaria, ma gli occhi neri e come stanchi avevano una gravità femminile e quasi orientale che non era di quei paesi. Né era mite o placido sotto il piccolo naso mal conformato, il sorriso della larga bocca senza labbra. Disse a fior di labbra: «Non l'avrei mai pensato». «Di dove mi credevate?» domandò Orlando quasi con vivacità. «Dell'Italia centrale». Orlando parve riflettere un momento, poi disse con franchezza, seppure con rispetto: «Anche voi, dottore, scommetto che partecipate al solito pregiudizio». «Quale pregiudizio?» «Il pregiudizio del settentrione contro l'Italia meridionale e in particolare contro la Sicilia. Voi, dottore, non volete dirlo, ma è così». Orlando scosse il capo, addolorato. Marcello protestò: «Veramente non pensavo affatto a questo. Vi credevo dell'Italia centrale per l'apparenza fisica». Ma Orlando non l'ascoltava più. «Vi dirò, è uno stillicidio», rispose con enfasi, evidentemente soddisfatto della parola insolita. «Per strada, in casa, dappertutto, anche in servizio, certi colleghi del nord arrivano a rimproverarci perfino gli spaghetti. Io rispondo: prima di tutto, gli spaghetti ormai li mangiate anche voi e più di noi. E poi, quanto è dolce la vostra polenta!» Marcello non disse nulla. In fondo non gli dispiaceva che Orlando parlasse di cose non attinenti alla missione. Era una maniera di eludere la familiarità su un argomento terribile e che non la sopportava. Orlando disse ad un tratto, con forza: «La Sicilia, la grande calunniata, per esempio la mafia. Sapeste che cosa non ci sanno dire sulla mafia? Per loro non c'è siciliano che non sia mafioso, a parte il fatto che ignorano tutto della mafia. Marcello disse: «La mafia non esiste più». «Si capisce, non esiste più», disse Orlando con aria non del tutto convinta. «Ma, dottore, anche se esistesse ancora, credete a me, sarebbe sempre meglio, infinitamente meglio degli analoghi fenomeni del nord. I teppisti a Milano, i Barabba a Torino, questi sono dei vigliacchi, sfruttatori di donne, ladruncoli, prepotenti coi deboli. La mafia, se non altro, era una scuola di coraggio». «Scusatemi, Orlando», disse Marcello freddamente, «ma voi dovete spiegarmi in che cosa consiste la scuola di coraggio della mafia». La domanda sembrò sconcertare Orlando, non tanto per la freddezza quasi burocratica del tono di Marcello, quanto per la complessità dell'argomento che non ammetteva una risposta immediata ed esauriente. «Dottore», disse con un sospiro, «voi mi fate una domanda alla quale non è facile rispondere. Il coraggio in Sicilia è la prima qualità di un uomo d'onore e la mafia si chiama da sé onorata società. Cosa volete che vi dica? Chi non c'è stato e non ha veduto con i suoi occhi è difficile che possa capire. Immaginatevi, dottore, un locale, bar, caffè, osteria, trattoria dove si trovasse riunito un gruppo di uomini armati e ostili al mafioso. Ebbene, costui che faceva? Non si raccomandava ai carabinieri, non lasciava il paese. Usciva invece di casa sua, vestito a nuovo, sbarbato di fresco, si presentava in quel locale, solo e disarmato, e diceva quelle due o tre parole che bastavano e ci volevano. Ora, che credete? Tutti quanti, il gruppo dei nemici, gli amici, il paese intero, avevano gli occhi su di lui. Lui lo sapeva. E sapeva pure che se avesse mostrato con lo sguardo non tanto fermo, con la voce non abbastanza calma, con il viso non del tutto sereno che aveva paura, era finito. Perciò tutto il suo studio era nel superare quest'esame. Sguardi decisivi, voce tranquilla, gesti misurati, colorito normale, sono cose che a dirle sembrano facili, ma bisogna trovarsi per capire quanto invece siano difficili. Dottore, questa era, tanto per fare un esempio, la scuola di coraggio della mafia». Orlando, che si era infervorato parlando, ebbe a questo punto uno sguardo freddo e incuriosito in direzione del viso di Marcello, come a dire: «Ma non è della mafia che dovevamo parlare noi due, se non erro». Marcello notò lo sguardo e in maniera ostentata gettò un'occhiata all'orologio che teneva al polso. «Ora parliamo un po' delle cose nostre, Orlando», disse con autorità. «Io mi incontro oggi con il professor Quadri. Secondo le istruzioni devo indicarvi il professore in modo che voi possiate accertarvi della sua identità. Questa è la mia parte, non è vero?» «Sì, dottore». «Ebbene, io inviterò il professor Quadri a cena o al caffè questa sera. Io non posso ancora dirvi dove, ma voi telefonatemi all'albergo stasera verso le 7 e allora saprò il luogo. Quanto al professor Quadri, stabiliamo fin d'ora una maniera per designarlo. Per esempio, diciamo che il professor Quadri sarà la prima persona a cui stringerò la mano entrando nel caffè o nel ristorante. Va bene così?» «Intesi, dottore». «E ora bisogna che me ne vada», disse Marcello guardando di nuovo l'orologio. Posò sul tavolo il prezzo dei caffè, si alzò e uscì, seguito a distanza dalla gente. Sul marciapiede, Orlando abbracciò con lo sguardo il fitto traffico della strada in cui due file di macchine si muovevano quasi al passo in due direzioni opposte e disse in tono enfatico: «Parigi». «Non è la prima volta che ci venite, non è vero, Orlando?» domandò Marcello cercando con gli occhi tra le macchine un taxi libero. «La prima volta», disse l'agente con una sua melensa fierezza. «Altro che la prima volta. Provatevi un po', dottore, a fare una cifra». «Ma non saprei». 12, disse l'agente. «Con questa la tredicesima». L'autista di un taxi colse a volo lo sguardo di Marcello e venne a fermarsi davanti a lui. «Arrivederci, Orlando», disse Marcello salendo. «Allora aspetto una vostra telefonata questa sera». L'agente fece con la mano un segno d'intesa. Marcello salì nel taxi dando l'indirizzo dell'albergo. Ma mentre il taxi correva, Le ultime parole dell'agente, quel 12 e quel 13, 12 volte a Parigi e questa è la 13esima, sembravano prolungare il loro suono nelle sue orecchie e destargli nella memoria echi remoti, come qualcuno che si affacci ad una grotta gridando e scopre che la propria voce si ripercuote in profondità insospettate. Poi, tutto ad un tratto, richiamato da quei numeri, ricordò che avrebbe indicato quadri alla gente con una stretta di mano e comprese perché, invece di informare semplicemente Orlando che quadri era riconoscibile dalla gobba, fosse ricorso all'accorgimento del saluto. Erano le lontane infantili reminiscenze della storia sacra che gli avevano fatto dimenticare la deformità del professore, tanto più conveniente della stretta di mano, ai fini di un sicuro riconoscimento. 12 erano gli apostoli e il 13esimo era colui appunto che abbracciava il Cristo per farlo riconoscere dalle guardie convenute nell'orto, per arrestarlo. Adesso, le figure tradizionali delle stazioni della Passione, tante volte contemplate nelle chiese, si sovrapponevano allo scenario moderno di un ristorante francese coi tavolini imbanditi, i clienti seduti a mangiare e lui che si alzava e andava incontro a quadri, tendendogli la mano, e l'agente Orlando che, seduto in disparte, li osservava ambedue. Poi la figura di Giuda, il 13esimo apostolo, si confondeva con la propria, ne sposava i contorni. Era la sua. Gli venne una volontà speculativa, quasi divertita, di riflessione di fronte a questa scoperta. Probabilmente Giuda fece quello che fece per gli stessi motivi per cui lo faccio io, pensò. E anche lui dovette farlo, sebbene non amasse farlo, perché era necessario, dopo tutto, che qualcuno lo facesse. Ma perché spaventarsi? Ammettiamo senz'altro che io abbia scelto la parte di Giuda. E con questo si accorse di non essere infatti per nulla spaventato. Al più, come si rese conto, pervaso dalla solita fredda malinconia, in fondo per nulla spiacevole. Pensò ancora, non per giustificarsi, ma per approfondire il paragone e riconoscerne i limiti, che Giuda era sì simile a lui, ma soltanto fino ad un certo punto. Fino alla stretta di mano. Forse anche, se si voleva, sebbene egli non fosse un discepolo di quadri, fino al tradimento, inteso in senso molto generico. Poi tutto cambiava. Giuda si impiccava, o almeno si pensava che non potesse non impiccarsi, perché quegli stessi che gli avevano suggerito e pagato il tradimento, poi non avevano il coraggio di sostenerlo e di giustificarlo. Ma lui non si sarebbe ucciso, neppure dato alla disperazione, perché dietro di lui egli vide la folla convenuta nelle piazze ad applaudire chi lo comandava e implicitamente a giustificare lui che ubbidiva. Finalmente pensò che non riceveva nulla in senso assoluto per quanto faceva. Altro che 30 denari, soltanto il servizio, come diceva l'agente Orlando. L'analogia trascolorava, si dissolveva, non lasciando dietro di sé che una traccia di orgogliosa e sufficiente ironia. Semmai, concluse, quel che importava era che il paragone gli fosse venuto in mente, che l'avesse sviluppato e che per un momento l'avesse trovato giusto. La voce di Tommaso Ragno per la puntata numero 19 di Il Conformista di Alberto Moravia. Questo è il classico scelto per voi dalla redazione di Ad Alta Voce, ovvero Fabiana Carobolante, Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, con la regia di Luigi Iavarone. Potete riascoltare l'intero ciclo e le prossime puntate, ricordo questo è un ciclo da 30 puntate, sul sito raiplayradio.it, dove trovate anche l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi.